Capitolo 23. Enrico. In quel tempo Alfredo Sinclair si recò a passare alcuni giorni nella famiglia di suo fratello alla villa di Pontchartrain e menò seco il suo primogenito, il quale aveva 12 anni. Nulla di più singolare, di più grazioso che vedere insieme quei due gemelli. Invece di farli somiglianti tra loro, la natura li aveva fatti diversi in tutto. Ciò nonostante pareva che un vincolo misterioso li avesse uniti in un'amicizia più intima che di solito non avviene. Essi avevano l'abitudine di passeggiare a braccetto lungo i viali del giardino, Agostino con gli occhi azzurri, la capigliatura bionda, le forme svelte e pieghevoli e la vivace fisionomia, Alfredo con gli occhi neri, il profilo romano, le robuste membra e l'altero portamento. Essi solevano darsi la baia sul modo di comportarsi, ma la differenza della loro indole non serviva che a unirli vieppiù. Enrico, il primogenito d'Alfredo, era un bel giovinetto di nobile aspetto, con occhi neri, pieno di vivacità e di fuoco, e fin dal primo incontro parve rapito dalle grazie della cuginetta Evangelina. Questa possedeva un piccolo cavallo che era il suo prediletto, bianco come la neve e mansueto e leggiadro al pari della sua padroncina. Questo cavallino fu menato da Tom dinanzi alla veranda, mentre un servo mulatto di 12 o 13 anni vi conduceva un piccolo cavallo arabo nero che Alfredo aveva fatto venire con grande spesa per Enrico. Questi andava altero del suo nuovo acquisto e nel prendere la briglia dal suo piccolo staffiere esaminò con diligenza il cavallo e aggrottò il ciglio. «Che vedo, Dodo, cane poltrone che sei! Tu non l'hai strigliato stamani?» «Sì, padrone», riprese Dodo con voce umile, «ma ora si è coperto di polvere». «Taci, briccone!» gridò con impeto Enrico alzando il frustino. «Come ardisci parlare?» Il mulatto era un bel giovinetto della medesima statura di Enrico. Gli occhi suoi sfavillavano e i ricciuti capelli gli ombreggiavano la fronte alta e ardita. Per fermo, anche nelle sue vene scorreva il sangue dei bianchi, come lo attestò il rossore improvviso delle sue guance e il fiammeggiare dei suoi occhi mentre parlava. «Padrone Enrico», cominciò, ma Enrico lo percosse in volto col frustino. Poi lo afferrò per le braccia e facendolo cadere ginocchioni lo batté con quanta forza ebbe. «Prendi, furfante, così imparerai a non rispondermi quando io ti parlo. Riconduci via questo cavallo e ripuliscilo. Ti insegnerò io a fare il tuo dovere». «Mio giovane padrone», disse Tom a Enrico, «credo che egli volesse dirvi che il cavallo, il quale è tutto fuoco, come sapete, si è svoltolato per terra all'uscire dalla stalla e in tal modo appunto si è coperto di polvere. Io stesso l'ho veduto stamani quando lo strigliava». «Tenete a freno la vostra lingua, voi, finché non siate interrogato», riprese Enrico. E voltandogli le spalle, risalì le scale della veranda per raggiungere Evangelina, che era vestita per cavalcare. «Cuginetta mia», le disse, «mi incresce che a cagione di quell'imbecille dobbiate aspettare. Poniamoci a sedere su questa panca finché egli non torna. Ma che c'è, cugina? Avete un'aria molto triste. Come avete potuto essere così cattivo e crudele con quel povero Dodo?» disse Evangelina. «Crudele? Cattivo?» riprese il giovane affettando maraviglia. «Che cosa intendete di dire, cara Eva? Quando vi comportate in tal modo gradirei che non mi chiamaste, cara Eva». «Mia cara cugina, voi non conoscete Dodo? È quello il solo mezzo di governarlo, egli è pieno di menzogne e di scuse. Per tenerlo a freno bisogna chiudergli subito la bocca, anche il babbo fa lo stesso». «Ma lo zio Tom vi ha detto che fu un caso e lo zio Tom dice sempre la verità». «Oh, è dunque un nero che non ha molti simili questo vostro zio Tom? Dodo non apre bocca che per mentire». «Lo costringete a mentire per paura, trattandolo in tale modo». «In verità, Eva, siete mossa da sì bella affezione per Dodo che io sto per diventarne geloso. Voi l'avete percosso senza ragione. Bene, vada per una delle volte che gli meritò le frustate senza riceverle. Dodo è un monello, ve lo assicuro io, ma non lo batterò più in vostra presenza poiché una tal vista vi affligge». Evangelina non era soddisfatta, ma invano tentò di far comprendere i suoi sentimenti a Enrico. Dodo comparve ben presto riconducendo i cavalli. «Questa volta hai fatto le cose un po' meglio», gli disse il suo giovane padrone con aspetto più grazioso. «Vieni, reggi il cavallo di Miseva mentre io l'aiuto a mettersi in sella». Enrico, che si pregiava molto di nobile destrezza in ogni sorta di servigi galanti, adagiò in sella la graziosa cugina e, raccolte le redini, gliele consegnò. Ma Evangelina si chinò dall'altra parte del cavallo dove si trovava Dodo e nel momento di allentare le redini gli disse: «Grazie, Dodo, voi siete un bravo giovane». Dodo guardò attonito in quelle dolci sembianze. Il sangue gli rifluì alle gote e gli si empirono gli occhi di lacrime. «Qua, Dodo!» gridò imperiosamente Enrico. Dodo si slanciò per tenere il cavallo che il suo giovane padrone stava montando. «Eccoti una moneta, va a comprarti i confetti». Dodo stette a guardare i due giovinetti mentre si allontanavano. Uno gli aveva dato denaro, l'altra gli aveva dato ciò che apprezzava assai di più, una parola mansueta, dolcemente pronunziata. Dodo era stato separato da pochi mesi dalla madre. Il padrone lo aveva comprato in un deposito di schiavi, invaghito della sua bellezza che era in armonia con la bellezza del cavallo. E ora egli faceva le sue prime prove sotto la direzione di Enrico. Da un'altra parte del giardino, i due fratelli Sinclair avevano assistito alla scena da noi descritta. Agostino era arrossito, ma disse soltanto con la sua solita aria di noncuranza: «Oh, suppongo, Alfredo, che sia questo un metodo di educazione repubblicana». «Enrico è un diavolo quando il sangue gli va alla testa», rispose Alfredo. «Oh, senza dubbio voi pensate che quello sia per lui un esercizio utile e istruttivo», soggiunse Agostino seccamente. «Se anche volessi non potrei tenerlo. Enrico è una vera tempesta e già da tempo sua madre e io abbiamo deposto il pensiero di frenarlo. D'altra parte credo che questo Dodo sia della natura degli spiriti, le frustate non gli fanno mai male». «Beh, in questo modo voi insegnate a Enrico il primo paragrafo di un catechismo repubblicano? Tutti gli uomini nascono liberi e uguali?» «Poh», fece Alfredo, «questa è una delle frasi sentimentali che Tom Jefferson prese in prestito dai saltimbanchi francesi. È cosa ridicola per tali stramberie che tali stramberie siano tuttora in voga fra noi». «Pare anche a me», disse Agostino con accento significativo. «Poiché», proseguì, «noi vediamo abbastanza chiaro che gli uomini non sono nati tutti liberi ed uguali, tutt'altro. Per me penso che una buona dose di questi principi repubblicani siano pretto ciarlatanismo. Le genti colte, ben educate, ricche sono quelle che debbono godere uguali diritti, ma non la canaglia». «Sì, se vi riesce di fare in modo che la canaglia sia di questa opinione, ma avvenne già che godesse la sua cuccagna in Francia». «Ah, certo, certo. Bisogna che sia tenuta a basso con vigore e fermezza come saprei fare io», disse Alfredo, percuotendo la terra col piede come se camminasse sul capo di qualcuno. «Ma alla fine prorompe in uno scoppio terribile», riprese Agostino, «come fu a San Domingo, per esempio. Non saremo tanto gonzi nel nostro paese. Bisogna che ci opponiamo a questa mania dell'educazione e dell'istruzione che si cerca di far prevalere. Le classi inferiori non debbono essere educate». «Non è più questo il tempo», rispose Agostino. «Saranno educati, il come non importa. Avete per sistema di allevarli con la brutalità, con la barbarie, distruggete in essi tutto quel che avevano di umano e li riducete simili a bestie feroci. Ebbene, se una volta essi avranno il sopravvento, dovremo combatterli come bestie feroci». «Il sopravvento non lo avranno mai», esclamò Alfredo. «Bene», disse Sinclair, «scaldate la valvola di sicurezza in un vapore, ponetevi a sedere sopra quelle, vedremo dove sbarcherete». «Ebbene», disse Alfredo, «vedremo. Io non ho timore di assidermi sulla valvola di sicurezza, finché le caldaie sono solide e la macchina agisce bene». I nobili al tempo di Luigi XVI pensavano così, altrettanto pensarono altri governi posteriori. E una bella mattina, quando meno ve lo figurate, potreste trovarvi tutti a cozzar nell'aria quando la caldaia scoppierà. «Dies declarabit», disse Alfredo, ridendo. «Sentite», riprese a dire Agostino, «se c'è ai nostri giorni una cosa che si manifesti con l'evidenza di una legge divina, è che le moltitudini debbono insorgere e le classi inferiori della società diventare superiori». «E questa», disse interrompendo Alfredo, «una delle vostre fisime da repubblicano rosso? Perché non vi siete dato al mestiere di tribuno popolare? Sareste diventato un oratore famoso. A ogni modo spero che sarò morto prima del tempo in cui le vostre sozze moltitudini avranno il sopravvento». Sozze o no, e se vi governeranno quando sarà venuto il loro momento, e voi raccoglierete allora quello che avrete seminato. La nobiltà francese aveva voluto un popolo plebeo ed ebbe a sazietà dei sanculotti per suoi governanti. Il popolo di Haiti, oh, per carità, Agostino, disse Alfredo interrompendo di nuovo il fratello. «Ne abbiamo già troppo dell'abominevole Haiti. Gli haitiani non erano anglosassoni. Se fossero stati di quella razza, le cose sarebbero andate altrimenti. La razza anglosassone è fatta per dominare il mondo e lo dominerà. Nelle vene dei nostri schiavi vi è una discreta dose di sangue anglosassone. Molti di essi non serbano della razza africana se non quanto importa per dare alla nostra indole previdente e risoluta una specie di slancio di ardore tropicale. Se qui scoppiasse l'insurrezione di San Domingo, il sangue anglosassone vincerebbe in quei giovani figli di padri bianchi e con tutta la fierezza dei nostri stessi sentimenti non si lascerebbero più oltre trafficare. E si insorgerebbero e farebbero insorgere al tempo stesso la stirpe delle loro madri. Frottole, sciocchezze! Io ho letto un'antica profezia in questi termini, continuò Agostino. Avverrà allora come ai giorni di Noè. Essi mangiavano e bevevano, si ammogliavano e davano giovinette a marito, fino a che il diluvio venne e li portò via. Insomma, disse Alfredo ridendo, mi pare che voi riuscireste a fare il predicatore ambulante. Ma di grazia, non abbiate paura per noi. Il potere è nostro. Questa razza soggetta, proseguì egli percotendo in terra il piede, è bassa resterà. Noi abbiamo energia quanto basta per far uso della nostra polvere da fucile. Giovani educati come il vostro Enrico saranno custodi eccellenti delle vostre polveriere, disse Agostino. Che sangue freddo, che impero sopra di sé. Il proverbio dice... Colui che non sa governare se stesso non sa governare neppure gli altri. Qui sta la difficoltà, disse con aria pensosa Alfredo. Di certo il nostro sistema non è il più adatto per formare docili figli. Esso abbandona troppo il freno alle passioni, le quali nel nostro clima sono vivaci abbastanza. Con Enrico io mi trovo in gran perplessità. Egli ha un'anima generosa, un cuore fervido, ma quando è eccitato scoppia come un razzo. Lo manderò nel nord, dove l'obbedienza è in voga, e là compirà la sua educazione. Egli starà quivi più in contatto coi suoi uguali e meno coi suoi inferiori. Ma se dunque l'educazione dei fanciulli è l'opera essenziale della razza umana, disse Agostino, e poiché il nostro sistema di educazione ha molti difetti, dobbiamo concludere che la nostra società è male ordinata. Se questo sistema nuoce sotto alcuni rispetti all'educazione, rispose Alfredo, le è favorevole sotto altri, esso fa i giovinetti coraggiosi e virili, e i vizi stessi di una razza abietta giovano a fortificare in essi le opposte virtù. Io penso che Enrico abbia meglio apprezzato la verità, vedendo che la menzogna e la frode sono i caratteri della schiavitù. No, è questo un modo assai cristiano davvero di considerare la questione, disse Agostino. Cristiano no, esso è vero, rispose Alfredo, e non è meno cristiano di tante altre cose al mondo. Può essere. Disse Sinclair. È inutile parlarne, Agostino, ne abbiamo già tanto discusso. Che ne direste di una partita a scacchi? I due fratelli salirono la scala della veranda e si trovarono ben presto seduti a un tavolino di bambù con lo scacchiere davanti. Alfredo riprese a dire: Vi accerto, Agostino, che se io pensassi come voi, vorrei fare qualche cosa. Non duro fatica a crederlo, voi siete un uomo d'azione, ma che fareste? Boh, farei un tentativo di educazione sui vostri schiavi. Rispose Alfredo con un sorriso di scherno. Sarebbe assurdo imprenderne l'educazione sotto il peso del sistema sociale che li opprime. Un solo individuo non può lottare contro la corrente generale. L'educazione, perché riesca a qualche cosa, deve essere data dallo Stato o trovarsi perlomeno in armonia col sentimento prevalente. Beh, muovete voi la prima pedina, disse Alfredo. I due fratelli furono ben presto assorti nella loro partita e continuarono a muovere i pezzi in silenzio fino al momento in cui lo strepito delle zampe dei cavalli si udì sotto la veranda. «Oh, ecco i nostri ragazzi!» disse Agostino alzandosi. «Guardate, avete mai veduto cosa più gentile?» E veramente era un quadro incantevole. Enrico, col suo aspetto altero, i capelli nerissimi e le guance colorite, rideva giovialmente chinandosi verso sua cugina. E là indossava una veste azzurra, un cappello del medesimo colore le copriva la testa. Il moto aveva dato al colorito del suo volto una vivacità insolita che faceva spiccare vieppiù il singolare candore della sua pelle. «Dio del cielo! Che abbagliante bellezza!» esclamò Alfredo. «E quanti cuori farà ella sospirare fra poco!» «Lo temo, purtroppo. disse Agostino con accento di profonda amarezza e corse per aiutarla a scendere da cavallo. «Eva, cuor mio, sei stanca?» domandò stringendola tra le braccia. «No, babbo», rispose la fanciulla. Ma il suo respiro breve e difficile pose in apprensione il padre. «Perché hai corso con tanta velocità, mia cara? Sai che ti nuoce?» «Oh, me ne sono scordata, babbo. E poi andare a quel modo mi divertiva tanto e mi sentivo così bene». Sinclair portò Evangelina nelle sue braccia fino alla sala e la depose sul sofà. «Enrico, tu devi avere cura di Eva», disse egli. «Non bisogna farla galoppare con tanta furia». «Ne prendo impegno», rispose Enrico mettendosi a sedere accanto al sofà e pigliando la mano di sua cugina. Evangelina si sentì presto assai meglio. Suo padre e suo zio ripresero la loro partita a scacchi e i due fanciulli furono lasciati insieme. «Sapete, Eva, che mi rincresce sommamente che il babbo non possa trattenersi qui più di 2 giorni. Io starò tanto tempo senza vedervi. Se fossi rimasto con voi avrei procurato di diventare buono e di non trattar più con tanta durezza Dodo negli altri. Non mica che io abbia l'intenzione di maltrattarlo, ma sono molto impaziente. E poi io sono tutt'altro che cattivo con lui. Per esempio gli regalo una moneta ogni tanto e voi vedete com'è ben vestito. Io credo insomma che Dodo debba essere contento della sua sorte». «Sareste contento voi se non aveste vicino qualche creatura umana per amarvi?» «Io? No, davvero?» «Ebbene, comprando Dodo voi lo avete separato da tutti i suoi parenti, da tutti i suoi amici e ora non ha nessuno che lo ami. Come potrebbe essere buono?» «Ma io non posso rimediarvi, per quanto io sappia, non posso restituirgli sua madre, né posso amarlo io medesimo. Nessun altro, credo, può amarlo». «Per qual motivo voi non potete amarlo?» domandò Evangelina. «Amare Dodo? Ma voi non vorreste mica che io amassi Dodo, Eva? Può darsi che gli mi piaccia assai, ma forse che voi amate i vostri schiavi?» «Sì, io li amo, ve l'assicuro». «Oh, che stranezza! La Bibbia dice che dobbiamo amare tutti come noi medesimi». «Oh, la Bibbia dice molte cose di questo genere, ma come ben sapete nessuno si cura di porle in opera». Evangelina non rispose e i suoi occhi restarono per un momento fissi e pensosi. «Ad ogni modo», disse poi, «caro cugino, ve ne prego, amate il povero Dodo e siate buono con lui, per amor mio». «Oh, non c'è cosa che io non possa fare per amor vostro, cugina, perché voi siete la più amabile creatura che io abbia mai veduta. Vi ringrazio e spero che non vi dimenticherete della vostra promessa». In questo punto la campanella del pranzo pose fine ai loro discorsi. Capitolo 24. Tristi presagi. 2 giorni dopo, Alfredo e Agostino Sinclair si separarono ed Evangelina, che stimolata dalla compagnia del cugino, si era affaticata più di quanto lo comportassero le sue forze, cominciò a declinare rapidamente. Agostino si risolse al fine di ricorrere al consiglio dei medici, cosa da cui aveva sempre rifuggito perché era come ammettere una verità dolorosa, ma Evangelina era stata così male che per 1 o 2 giorni non poté uscire di casa e, come abbiamo detto, il medico fu chiamato. Maria Sinclair, occupata unicamente a studiare 2 o 3 nuove malattie immaginarie dalle quali si credeva affetta, non si era nemmeno accorta come Evangelina andasse di giorno in giorno deperendo. Ella credeva che nessuno avrebbe mai potuto soffrire al pari di lei, perciò si sdegnava ogni volta che si facevano dinanzi a lei allusioni a malori di chiunque altro. Maria in tali casi era sempre persuasissima che l'infermità altrui derivasse dalla loro infingardaggine o da mancanza di energia, aggiungendo che ove si avesse la minima idea di ciò che la soffriva si vedrebbe tosto la differenza. Miss Ophelia aveva tentato più volte, ma invano, di risvegliare i materni timori di lei a proposito della figlia. «Non vedo che Eva sia minimamente indisposta», rispondeva Maria. «E la salta, gioca». «Ma ha la tosse!» «E che significa questo? Oh, non mi venite a parlare di tosse. Quando io avevo l'età di Eva, tutti mi dicevano tisica. Ogni notte me mi doveva stare al mio letto. La tosse di Eva è una cosa da nulla». «Ma ella deperisce, ha il respiro difficile». «Oh, anch'io soffersi ciò, anni ed anni, è un'affezione nervosa». «Ma ha traspirazioni copiose ogni notte». «Ebbene, io ci vado soggetta da 10 anni. Spesso nella notte mi sveglio tutta in sudore. Le mie vesti, le mie coperte ne sono inzuppate in modo che mammi è obbligata a stenderle affinché asciughino. Le traspirazioni di Eva non sono paragonabili alle mie». Miss Ophelia dovette tacere per qualche tempo. Ma allorché il deperimento di Evangelina fu visibile e incontestabile, Maria cambiò improvvisamente linguaggio. Diceva che da gran tempo aveva presentito che era destinata a divenire la più infelice delle madri. Così rifinita di salute, doveva assistere coi suoi occhi alla lunga agonia della figliuola. E Maria teneva in piedi tutta la notte Mammy, la sgridava, strepitava più del solito per effetto di questa nuova sventura. «Mia cara Maria», le diceva St. Clair, «non parlare a questo modo, non bisogna disperar subito come fai tu». «Oh, voi non avete il cuore di una madre, St. Clair, voi non avete mai potuto comprendermi e molto meno lo potreste in questo momento. Ma non parlarle come se fosse un caso senza rimedio». «Io non posso parlare di ciò con la stessa vostra indifferenza, St. Clair. Se voi non siete commosso al vedere l'unica nostra figlia in pericolo, ebbene io sì, io sono altamente commossa. Ah, è un colpo troppo crudele per me, dopo tutto quello che ho già sofferto». «È vero che la complessione di Eva è delicatissima, purtroppo», rispose St. Clair, «e io l'ho temuto sempre, e l'è cresciuta con tanta rapidità che ne è ora rifinita. Ma adesso vi si aggiungono l'estremo calore e lo strapazzo cagionatole dalla visita di suo cugino, e poi il medico accerta che non è ancora perduto ogni speranza. Siete padrone, padronissimo di considerare le cose sotto questo aspetto. È una vera fortuna, una vera benedizione in questo mondo il non essere troppo sensibili. Certo, se il mio cuore lo fosse meno, io non sarei tanto infelice. La mia grande sensibilità non mi frutta altro che affanni. Ah, davvero, io mi augurerei di somigliare a voi altri». La povera Eva udiva spesso di questi discorsi e la compiangeva i dolori della mamma e si affliggeva di essere cagione di un dolore sì vivo. Trascorsero alcune settimane e lo stato di salute della gentile fanciulla migliorò notevolmente. Soltanto Miss Ophelia e il medico non si lasciavano illudere da questa tregua fallace. Un altro cuore aveva lo stesso presentimento ed era Eva stessa. Oh, che mai la voce che parla sì quietamente, sì chiaramente all'anima del tempo breve da restare sulla terra. È forse il segreto istinto della natura che declina o l'ardente aspirazione dell'anima verso l'immortalità che s'appressa. Comunque sia, la buona fanciulla sentiva con profetica certezza che il cielo era vicino. Certezza placida come i raggi del sole cadente, soave come la serenità di un bel giorno autunnale, in ciò si riposava il suo cuore, turbato soltanto dall'afflizione di coloro che l'amavano così caramente. Ella non lamentava punto il suo precoce destino, sebbene fosse tanto vezzeggiata e sebbene la vita le si schiudesse dinanzi con tutte le delizie che l'amore e l'opulenza concedono ai mortali. In quel libro che ella e il suo vecchio amico leggevano spesso, aveva trovato e si era messa nel cuore l'immagine di uno che amava i fanciulli e l'aveva vagheggiata con tanto affetto che era per lei cosa viva e parlante. L'amore di quell'immagine aveva occupato il cuore della fanciullina con una tenerezza più che mortale ed ella soleva dire che si incamminava verso Cristo, verso la casa di Lui. Ma il suo cuore provava una tenerezza dolorosa per coloro che doveva abbandonare e in modo speciale per il padre suo, perché ella intuiva di essere amata più da lui che da ogni altro. Ella amava sua madre perché l'amore era il sentimento che le empiva l'anima e tutto l'egoismo di questa non faceva che conturbarla senza comprendere bene il perché. Aveva quella credenza innata nei fanciulli che una madre non può mai aver torto. Era in costei alcunché di misterioso per Eva, ma alla fine pensava che l'era sua madre e l'amava con tenerezza. Soffriva per quei poveri servi ai quali era cara come la luce del sole. Di rado avviene che i fanciulli abbiano idee generali, ma Evangelina, che era di una precoce e straordinaria intelligenza, non aveva potuto osservare senza disgusto tutte le conseguenze deplorabili del sistema sotto il quale viveva. Era mossa dal vago desiderio di far contenti e liberare non solo coloro che la circondavano, ma tutti quelli che si trovavano nella condizione stessa, e questo desiderio contrastava dolorosamente con la sua debolezza fisica. «Zio Tom», disse ella un giorno dopo aver fatto la solita lettura al suo amico, «io comprendo ora perché Gesù volle morire per noi». «Perché, Miss Eva?» «Perché io vorrei fare altrettanto». «Che cosa volete dire, Miss Eva? Io non vi intendo». «Non so come spiegarmi. Quando vidi quelle povere creature sulla nave, Sapete bene, mentre voi ed io eravamo insieme. E le udii invocare chi il padre, chi la madre, chi il marito, chi i figli. Quando udii la storia della sciagurata prua e di molte altre, io sentii che morrei volentieri se la mia morte potesse dar fine a tutte quelle miserie. Sì, Tom, morrei volentieri per loro se potessi. Ripeté la fanciulla con voce commossa, ponendo la sua manina scarna in quella di lui. Tom la guardò con venerazione e quando Evangelina uscì per correre da suo padre che la chiamava, egli si asciugò più volte le lacrime mentre la seguiva con gli occhi. «È impossibile trattenere Miss Eva», disse egli a Mammy che incontrò un momento dopo. «E là sulla fronte il suggello di Dio». è vero», disse Mammy alzando le mani. «Io l'ho sempre detto, ella non era destinata a stare a questo mondo, ha un non so che di profondo negli occhi». La fanciulla salì la scala della galleria per raggiungere suo padre. Gli ultimi raggi del sole la circondavano di una specie di aureola mentre s'avanzava, vestita di bianco con le ciocche bionde svolazzanti sulle spalle, il viso infiammato, gli occhi scintillanti per la febbre che la consumava internamente. Sinclair l'aveva chiamata per mostrarle una statuetta, ma al vederla egli provò una subitanea impressione di dolore. Vi è una sorta di bellezza così intensa e non di meno così fragile che non possiamo tollerarne la vista. Suo padre se la strinse tra le braccia e dimenticò quanto le voleva dire. «Eva, amor mio, ti senti meglio ora, non è vero?» «Babbo», disse la fanciulla con una risoluzione subitanea, «ho cose che volevo dirti da un pezzo e le dirò ora prima che io diventi più debole». Sinclair tremò. Evangelina gli si pose sulle ginocchia e appoggiò la testa al suo seno. «È ormai inutile ogni cura, babbo. È venuto il tempo in cui devo abbandonarti, me ne andrò per non tornar mai più». «Oh, cara piccina!» esclamò Sinclair con voce malferma, a cui procurava però di dare un accento gioviale. «Tu soffri di nervi e oggi sei di spirito abbattuto. Non bisogna lasciarsi vincere da sì tristi presentimenti. Guarda, ti ho comprato una statuetta». «No, babbo, non ti illudere», disse Evangelina, senza però guardarlo in viso. «Io non sto meglio. Lo sento benissimo, me ne andrò in breve. Io preferisco di andarmene in cielo. Per l'amore soltanto dei miei diletti consentirei a vivere ancora. Tante cose in questo mondo mi addolorano e mi fanno male. Starò meglio lassù. Ma vorrei non lasciarti, perché al solo pensarvi mi si spezza il cuore». «E che è ciò che ti addolora e ti fa male, Eva mia?» «Oh, cose che succedono di continuo. Io mi sento afflitta per la nostra povera gente. Essi mi amano tanto e sono così buoni per me. Vorrei, babbo, che fossero tutti liberi». «Non credi, cara Eva, che siano trattati bene abbastanza?» «Ma babbo, se ti succedesse qualche cosa, che sarebbe di loro? Vi sono ben pochi uomini come te. Mio zio Alfredo non ti somiglia, la mamma neppure, e tantomeno i padroni dell'infelice Prù, di quali orrori non sono capaci gli uomini». E la fanciulla rabbrividiva. «Oh mia diletta Eva, tu sei troppo sensibile, mi dispiace che tu abbia spesso udito tali storie». Ecco appunto ciò che mi accora, babbo. Tu vorresti che io vivessi felice, che non avessi alcun rammarico, alcun patimento, che non sentissi mai fatti dolorosi, mentre tante povere creature non vivono che di dolore e di stenti. Ciò mi pare egoismo. Io devo sapere queste cose, io devo sentirne afflizione. Queste cose mi andarono sempre al cuore, proprio nel fondo. Io ci penso e ci ripenso, caro babbo. Non vi sarebbe alcun mezzo di rendere liberi tutti gli schiavi? Oh, questa è una questione troppo difficile. Senza dubbio la schiavitù è una cosa pessima. Molti lo credono e lo credo io pure. Vorrei di tutto cuore che non vi fosse più neanche uno schiavo nel nostro paese, ma non so come si potrà pervenire a questo intento. Babbo, tu sei tanto buono, generoso e pio, tu hai un sì bel modo di dire tante cose, non potresti tentare di persuadere tutti a un'opera santa? Quando io sarò morta, babbo, tu penserai a me e lo farai per amor mio, lo farei da me se potessi. «Quando sarai morta?» esclamò Sinclair appassionatamente. «Oh figlia, figlia, non parlarmi così! Tu sei l'unico bene che ho sopra la terra!» Anche il figliolino della povera Prue era l'unico bene che l'avesse sopra la terra. e non di meno ella dovette sentirlo strillare senza potergli dare aiuto. Babbo mio, quelle povere creature amano i loro figli così teneramente come tu ami me. Fa qualcosa per loro. Anche la povera Mammy ama i suoi figli, io l'ho vista piangere parlandone. Tom anch'esso ama i suoi figliuoli. Non è orribile, babbo, che queste cose possano succedere? Orsù mia, diletta Eva, disse Sinclair col tono di voce più soave che gli fu possibile, non ti tormentare da te stessa, non mi parlar di morire, e io farò tutto quello che tu vorrai. E promettimi, caro babbo, che Tom sarà rimandato libero allorché... Ella si interruppe e poi aggiunse con voce malsicura, allorché io me ne sarò andata. Oh sì, mia bella anima, farò tutto al mondo, tutto ciò che tu possa domandarmi. Caro babbo, disse la fanciulla mettendo la sua guancia infuocata su quella di lui. Oh, come vorrei che noi potessimo andare insieme. Ma dove, cara piccina? Domandò Sinclair. Nel soggiorno del nostro Salvatore. Tutto vi è così bello, così placido. Non vi è lassù altro che amore e pace. La fanciulla parlava del cielo come di un luogo dove fosse stata sovente. Non vorresti venirci, babbo? Soggiunse. Sinclair se la strinse al petto, ma non rispose. Tu verrai a raggiungermi, continuò la fanciulla, con quella sicurezza d'accento che aveva talvolta a sua propria insaputa. Io ti seguirò, non mi dimenticherò di te. Le solenni ombre della sera si facevano più dense intorno a loro. Sinclair stava immobile, stringendo al suo seno la debole creatura. Egli non vedeva più i gravi occhi di lei, ma ne udiva la voce pari a quella di un angelo, e in una specie di visione della coscienza tutta la sua vita trascorsa gli si schierò per un momento dinanzi agli occhi: le preghiere e gli inni di sua madre, i suoi desideri onesti di gioventù e le aspirazioni al bene, e tra quel passato e l'ora presente una lunga serie di anni di dissipazioni e di scetticismo. Noi possiamo pensare molte e molte cose in un solo istante. Sinclair vide e sentì molte cose, ma non parlò. Inoltrandosi la sera, egli condusse Evangelina nella sua camera e, quando tutto fu pronto per il riposo notturno, accomiatò i servi e la cullò nelle sue braccia, canterellando, fino a che fu addormentata.